agosto qui a Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza, in lieve ritardo inizia prove tecniche di trasmissione e ironia della sorte proprio con problemi tecnici che cercheremo di affrontare. Andremo avanti sino alle 22.30 circa, intorno alle 23 ci sarà 25 o'clock. Don't forget your keys. Your engine is on. Ricordiamo naturalmente la necessità di sottoscrivere per Radio Onda Rossa. Andando sul sito della radio ci sono le varie modalità di adesione, elettroniche o meno, compreso lo storico conto corrente postale 6180 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Via Volsci 56 00185, Roma. Rapidissimi saluti, Anna qui a Roma. Cortina d'Ampezzo, Tabula Rasa, un saluto a Cecilia Miradoli di Pinda, Tiziano Farinacci di Pigrego, Cristiano Bocci, Laura Spirit Crusher, Doriana Panico a Taranto, Moschita de Miramar ad Arlen, Olanda, Ernesto Brusati di Panico da Palcoscenico, Orlando Furioso, Nicola Locci e Maia in Sardegna. Salutiamo anche Francesco Monaci di Tosmilso, per l'appunto, Francesco Cornello in quel di Bergamo, Enrico Ponzoni di Sokunshi Butsu Project, altri affezionati sono Daniele Ciullini e Giuseppe Verticchio, peraltro anche ottimi musicisti sperimentali. E cominciamo con un'altra eminenza grigia della scena sperimentale italiana, lui è 909 nella persona di Marco Milanesio. In queste settimane ci siamo goduti questo Come il mare dentro, un album decisamente dilatato e oscuro, anche con frangenti però vicino al trip hop in maniera diciamo inaspettata. Ci ascolteremo la traccia più lunga di questo lavoro, dal nome Attraverso. Volevamo mettere Attraverso, ma c'è una vera e propria ribellione tecnologica questa sera e quindi cercheremo di ovviare mettendo altre due tracce di 909 ossia sotto il blu, e vedremo anche di mettere un mare dentro. Thank you. comunque siamo riusciti quantomeno a far partire anche attraverso, che avevo annunciato ad inizio trasmissione, diciamo la traccia più lunga di questo Come il mare dentro di 909 di Marco Milanesio, che peraltro è scaricabile in free download dal suo profilo Bandcamp. E quindi Marco Milanesio, come sotto lo pseudonimo 909, con questo Come il mare dentro, ci ha tenuto compagnia con le sue atmosfere così dilatate e siderali, ci ha tenuto compagnia per molte settimane. E Marco Milanesio, d'altronde, è una vecchia volpe sia della produzione sia della composizione. Lo ricordiamo alla metà degli anni Ottanta come Disordine, saluto intanto anche Like Wake, l'ambiente storica qui di Roma, Jean-Claude Berthaud. Lucia Cagliazza, ricordo ancora una volta, di lei è uscito un ultimo lavoro che presto ci godremo qui su queste frequenze. Andiamo adesso da Cristiano Bocci, che anche lui affolla spesso le nostre scalette. Qui alle prese con una dimensione diversa, una bellissima commissione, fusione tra jazz, avanguardia, industrial, un jazz notturno, brumoso, da locale vizioso. Un'inquietudine espressa attraverso Beyond the Dark Zones. E questa sera le due tracce di chiusura, The Dark Zones e Respiro. Thank you. E queste sequenze finali sono quelle probabilmente più di classe, più raffinate, meno brumose e inquiete rispetto al, a tutto il resto del disco. Mi spingo a dire forse una delle cose veramente più interessanti fatte da Cristiano Bocci, coadiuvato da molti artisti, da molti ospiti. Un album che esce per la Nesplains Sounds Group di Raffaele Pezzella. Il piano inquietante che veniva citato da Moschita de Miramara era di Mara Lepore, spesso presente nei lavori di Bocci anche come Chemical Resistance oppure Duo Serpe. E dalla Anespress Sounds andiamo ad un'altra etichetta sicuramente più recente, ma ultimamente anche parecchio attiva. Sto parlando della Dissipazio di Nicola Quiriconi, che stiamo apprezzando in queste settimane grazie a Post Exorcism di Emito Kunst. Secondo lavoro per questo misteriosissimo artista. E qui ci inoltriamo in territori, come si suol dire, da krautrock trattato in maniera molto particolare da Emito Kunst. E allora sta per partire Udgul, poi 49 Days After Death. Questo era Post Exoticism di Emito Kunst, qualcosa di visionario, di onirico, ma indubbiamente un sogno inquieto, qualcosa appunto di inquieto che attraversa tutto l'intero album di Emito Kunst, un secondo lavoro per lui che si diletta, come sentite anche la voce, oltre che ad essere valente polistrumentista. L'anima kraut viene fuori spesso nelle opere di Emito Kunst. Onda rossa 87.9 in modulazione di frequenza e www.ondarossa.info. Ancora Italia, Ernesto Brusati e la sua avventura Panico da palcoscenico. Credo che questo sia l'album di esordio ancora più oscuro e spettrale di delle cose che ci siamo ascoltati or ora. Il nome è appunto Agitato Cantabile. E lo andiamo a conoscere molto volentieri. Ricordiamo, Ernesto Brusati proviene da Varese, con la prima traccia dal nome Andante per inerzia.